Resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende. No, ma un'ultima grazia io vi richiedo. Se posso. Io lascio il mondo una persona cara. Consentite ch'io le scriva un sol motto. Unico resto di mia ricchezza è questo anello. Se promettete di consegnarle il mio ultimo addio.